Italia in controluce. Buongiorno, oggi l'8 febbraio è la seconda edizione di Italia in controluce, il quotidiano con taglio da magazine, da reportage e da inchiesta che parla di cronaca italiana, casi di nera e giudiziaria, la politica delle città, le curiosità, il costume, lo spettacolo e la cultura. Un programma condotto e coordinato da Daniele Biacchessi. La prima traccia riguarda lo stato dell'arte in Italia, le condizioni in cui si trova oggi una delle grandi bellezze architettoniche del nostro paese, la Villa Reale di Monza. Il racconto di Paolo Piacenza. Giuseppe Piermarini, l'architetto della Milano neoclassica, ci ha messo 3 anni, dal 1777 al 1780, per costruire la Villa Reale di Monza. Poi però, per trovare chi la rimettesse all'onore del mondo, le amministrazioni della Repubblica ci hanno messo decenni. E ora che quel momento sembra arrivato, esplodono le polemiche sulla soluzione adottata. Al punto che, oltre alle opposizioni di centrosinistra in comune e in regione, anche 11.000 monzesi hanno chiesto uno stop a quello che ritengono essere un regalo ai privati. Strana storia quella della Villa Reale di Monza, una storia difficile, complicata, quasi che per il nostro paese le grandi regge dell'epoca dell'assolutismo, Venaria, Caserta e Monza, appunto, siano più un problema che una risorsa. A Monza la storia, con la S maiuscola, racconta degli austriaci, di Napoleone, del re Umberto I che amava tanto la villa e che qui fu ucciso nel 1900 dall'anarchico Bresci. La storia recente invece racconta che nel 1935 una legge ha stabilito la cessione di gran parte del compendio ai comuni di Monza e Milano, ma solo nel 1996 quella legge è stata applicata. Nel frattempo la guerra, gli sfollati, un lungo destino di abbandono mitigato da qualche limitato intervento della sovrintendenza. Marco Mariani, sindaco di Monza. La Villa Reale sta crollando, perché ci sono delle stanze in Villa Reale in cui non la fanno neppure avvicinare perché c'è rischio crollo. Allora, quando qualcuno a Monza mi dice ci rubano la Villa Reale, e io gli dico quale? Adesso facciamo ville aperte in Brianza, e in Villa Reale in 2 giorni abbiamo 3.000 prenotazioni, no? E facciamo vedere solo il piano rialzato, una parte del quale, esattamente 19 stanze, è stato recuperato negli anni. Il secondo e il terzo piano, chiamiamolo così, sono la devastazione totale. Lei lo sa che negli anni 60-70 in Villa Reale c'erano gli sfollati senza tetto e infilavano i parquet dei pavimenti della villa nel camino perché in estate avevano un freddo della Madonna. Per raccontare questa vicenda bisogna seguirla passo passo. La prima svolta per la villa arriva nel 2004. La giunta Faglia, centrosinistra, indice un concorso internazionale e si arriva a un progetto unitario di recupero elaborato dal gruppo guidato dal professor Carbonara di Roma. Si guarda all'Expo, si ipotizza di dar vita a una fondazione, ma Ministero e Sovrintendenza non intendono farne parte. E allora l'amministrazione Mariani, centrodestra, subentrata nel 2007, trova la soluzione del consorzio, con dentro tutti i proprietari del vasto complesso. Comune di Monza, la regione subentrata al Comune di Milano, che resta solo per il parco, lo Stato. Nel 2010 si arriva al passaggio al centro delle polemiche. Comune di Monza e Regione scelgono la via del bando di gara per affidare restauro e gestione per 30 anni a un privato. Una soluzione che, almeno sulla carta, costerebbe al vincitore dell'appalto solo 30.000 euro l'anno d'affitto, più 4 milioni circa di contributo per il restauro. L'opposizione e un comitato di cittadini gridano alla svendita. L'ex sindaco, ora consigliere di minoranza, Michele Faglia. Ci troviamo di fronte a un bando gestito da Infrastrutture Lombarde che prevede in sostanza di sottrarre al consorzio la gestione della Villa Reale, di assegnarla a un privato che curi la manutenzione della villa per 30 anni e faccia la gestione degli spazi di 8.500 metri quadrati, quindi del corpo centrale e di una porzione del corpo nord della villa stessa. Tutto questo in cambio di un piccolo contributo che darà il privato, sono 4 milioni di euro su 23, 19 li mette la regione, e quindi a fronte di un corrispettivo che a nostro parere è irrisorio. Consiglio comunale, abbiamo detto benissimo, allora cosa mancano? 4 milioni di euro, mettiamoli noi, li metta il comune di Monza, si trovino dei sostenitori privati. Invece non si è cercato, non si è perseguita questa strada. Ma il sindaco Mariani non ci sta. Ci sono stati in giro in Monza un po' di falsi, bugiardi, ipocriti, al cui confronto Giudice Scariotto e dopo laurista dell'Enel, che hanno raccolto delle firme imbrogliando la gente. Perché quando tu vai a dire a uno sei d'accordo nel dare a un privato la Villa Reale a 30.000 euro l'anno per 30 anni, c'è stato un mio paziente che ha risposto per 35.000 la prendo io. Era talmente favorevole al privato questo bando di gara che sa quante associazioni temporanee di impresa hanno partecipato. partecipato? Lei lo sa? Sì, mi hanno detto due, mi hanno detto. Due. Guardi, allora, o i privati in Italia sono diventati tutti degli imbecilli perché non hanno capito la grandissima convenienza che avevano, e naturalmente non è così, e invece è vero il contrario, che il privato dovrà poi per 30 anni fare la gestione, che vuol dire luce, gas, guardiania, verde, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui andare incontro, fare un piano economico da qui a 30 anni di spese con un fisiologico rischio d'impresa. Chi dovrà gestire la verifica di gestione e valorizzazione per conto di regione e comune, cioè il direttore del consorzio Pietro Petraroia, assicura che gli strumenti per tutelare l'interesse pubblico ci sono. Il codice dei beni culturali prevede per casi del genere la stipula di un contratto di servizio. Questo contratto di servizio deve garantire un rapporto equilibrato tra la fruizione pubblica e la buona conservazione del bene. E naturalmente questo però si lega al progetto che risulterà vincitore, al progetto di gestione. Lei pensi che questa attività di gestione poi comporterà spese stimabili in circa 30 milioni di euro a carico esclusivo di chi vince quella gara, e che si aggiungono alla sua compartecipazione di oltre 4 milioni alle spese invece dell'intervento di recupero del corpo centrale. Quanto al processo di assegnazione gestito dalla Società Regionale Infrastrutture Lombarde, siamo ormai alle battute finali. Il sottosegretario del Presidente con delega all'attrattività e promozione del territorio, Francesco Magnano. C'è una commissione riunita che sta valutando la parte tecnica. I soggetti sono due, però per quanto riguarda chi sono, preferisco non anticiparli per rispetto della normativa. Regione Lombardia, così come tutti gli altri proprietari, tuteleranno l'interesse pubblico, e ancora una volta ribadisco che non c'è nessuna svendita della villa, ma un bene che dopo il restauro sarà a disposizione del pubblico. Questa è la pura verità, non le notizie distorte e faziose che ci sono in giro e messe in giro dall'opposizione. I dubbi di chi si oppone tuttavia restano sul tavolo. In regione i consiglieri del PD Brambilla e Civati hanno presentato una mozione per bloccare il bando, respinta dalla maggioranza. Al di là della scelta che indebolisce il ruolo del pubblico, dice Giuseppe Civati, anche il numero esiguo dei partecipanti fa pensare. Il consigliere della Lega che è intervenuto in aula ha ricordato che il bando era particolarmente impegnativo perché solo due cordate hanno risposto. Insomma, gli abbiamo fatto notare che il fatto che siano solo due non significa proprio nulla, anzi potrebbe anche far pensare male, potrebbe far pensare che il bando è stato indirizzato in qualche modo verso soggetti, non dico noti perché non mi permetto di dirlo, ma magari insomma che potessero operare in un contesto di quel tipo, insomma quasi un'esclusività. Non direi che ci sono dubbi sulla la moralità dell'operazione, però certamente dal punto di vista amministrativo i dubbi rischiano di aumentare. Civati promette che la battaglia continuerà e l'ex sindaco Faglia annuncia in consiglio comunale a Monza un duro confronto. E noi continuiamo a perseguire come minoranza, adesso io rappresento una lista civica, però siamo uniti in consiglio comunale anche con una parte della maggioranza. Noi vogliamo che venga messo all'ordine del giorno del consiglio comunale di bloccare il bando, e vedremo, faremo la conta dei voti. Italia in controluce. Esiste un rapporto tra lotta alla mafia e gastronomia? Con l'avvento delle cooperative di Libera Terra il connubio è ormai certo. Cristina Carpinelli. Siccome lo giuri, tu diede un occhio. Prendete la mozzarella di bufala campana bio, prodotta in terreni sottratti alla mafia. Mangiatela mentre Tiziana Di Masi, un'attrice, vi racconta che quello che state masticando non è solo mozzarella, ma è anche la vittoria del bene sul male. Si chiama Mafia in pentola, Libera Terra, il sapore di una sfida, ed è uno spettacolo, un monologo teatrale interpretato da Tiziana Di Masi e scritto dal giornalista Andrea Guolo. Abbiamo chiesto alla signora Di Masi di raccontarci come è nato e come si è strutturato questo progetto. Si tratta di una sperimentazione sostanzialmente, cioè voler raccontare il peggio del nostro paese attraverso il meglio, quindi un vero e proprio rito di trasformazione. Parlando in termini pratici, sì, è uno spettacolo che vuole affrontare la tematica delle mafie che si sono espanse in tutto il nostro paese, da nord a sud, ma lo fa attraverso il cibo che nasce sui terreni che sono stati confiscati alle mafie. per cui tutti quei terreni che prima appartenevano a Sacra Corona Unita, Andrangheta, Camorra, Cosa Nostra, sono state affidate alle cooperative di Libera, l'associazione creata da Don Ciotti nel 1995. Da lì poi è nato questo circuito straordinario che è quello di Libera Terra, un marchio che raggruppa proprio questi terreni che prima appartenevano all'Andrangheta, ora sono stati affidati alle cooperative di Libera Terra, e su quei terreni si coltiva la speranza sostanzialmente, cioè sono nate delle cooperative sociali che producono cibi straordinari, perché in un posto dove per poter lavorare bisognava affidarsi ovviamente, è ironico, alle mafie, ora ci sono delle possibilità di lavoro per le persone, quindi possibilità di creare un'economia giusta, pulita, libera. Lo spettacolo è dunque un viaggio dentro le cooperative create da Libera in Sicilia, Calabria, Puglia, Campania e Piemonte. Il pubblico arriva e spesso resta stupito, ci racconta ancora Tiziana Di Masi. Ecco, il pubblico che partecipa a questo spettacolo è veramente di diverso tipo, di diverso genere, anche perché proprio come mission questo spettacolo vuole arrivare a chi sostanzialmente non si avvicinerebbe a uno spettacolo di questo tipo. Ecco, durante queste repliche, durante appunto anche il debutto, molte persone mi hanno detto: ci aspettavamo uno spettacolo pesante, ecco, il solito spettacolo sull'antimafia. Ecco, sicuramente non sono parole confortanti, perché comunque un pubblico che dice così, il solito spettacolo, diciamo che spiazza un po', però ho cercato di vederne, come sempre nel mio lavoro, l'aspetto positivo, cioè questo è uno spettacolo che vuole arrivare a tutti, anche a chi non ha mai sentito parlare dell'associazione Libera, anche a chi pensa che le mafie non esistano, che al nord siano un'invenzione di qualcuno. Ecco, poter arrivare in maniera diretta, semplice, ai giovani come alle persone, come dire, più anziane, cioè riuscire a far capire quanto sia importante un impegno che parte dal basso. Io parlo di un'antimafia dal basso e cerco di comunicare questi temi che sono di un'importanza straordinaria, perché è una lotta che si può vincere ed è possibile lottare contro la mafia partendo dalle piccole cose. Questo è uno spettacolo che vuole dire questo, cioè anche solo scegliendo un prodotto di Libera Terra io appoggio un'economia libera, giusta, pulita, mi metto dalla parte corretta. Il primo spettacolo andrà in scena mercoledì 17 novembre a Imola, seguiranno altre date, basta scrivere su un motore di ricerca Mafia in pentola per sapere quali e dove. La seconda edizione di Italia in controluce torniamo domani alle 6:30 su Radio 24.